La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'alluvione del Polesine del novembre di 60 anni fa. Le città di Rovigo, Occhiobello, Adria, Loreo, Rosolina, Contarina, Donada furono sommerse da miliardi di metri cubi d'acqua, 180.000 gli sfollati, 84 le vittime. Rievochiamo questo tragico evento insieme allo storico Paolo Sorcinelli, responsabile tra l'altro del laboratorio di storia sociale Memoria del Quotidiano e autore del volume L'alluvione, il Polesine e l'Italia nel 1951, edito da UTET. Ma ora la parola va a Dino Pesole. È stato definito il primo disastro naturale del dopoguerra e fu anche la prima prova di solidarietà collettiva per un paese che stava lentamente emergendo dal disastro provocato dal conflitto mondiale. È il 14 novembre del 1951, 60 anni fa. Le rotte del Po nei comuni di Canano e Occhiobello, in provincia di Rovigo, riversano sul Polesine circa 8 miliardi di metri cubi d'acqua. Una catastrofe di proporzioni bibliche. Città come Rovigo, Occhiobello, Adria, Cavarzere, Loreo, Rosolina, Contarina, Donada vengono sommerse dalle acque. 180.000 gli sfollati, 84 le vittime. Le cronache di allora tornano alla mente in questi giorni con i disastri e le alluvioni dei nostri tempi, ultima in ordine appunto di tempo l'alluvione abbattutosi sulla provincia di Messina. Alle 19.45 del 14 novembre 1951, l'argine maestro del fiume Po rompe a Vallice di Paviole, in comune di Canaro. Alle 20, la seconda rotta, in località Bosco, in comune di Occhiobello. La terza falla si produce poco più tardi alle 20.15 in località Malcantone dello stesso comune. La massa d'acqua che si riversa con furia sconvolgente sulle terre del Polesine è immane. Circa due terzi della portata fluente, anziché proseguire la sua corsa verso il mare entro gli argini del fiume, si riversa in pochi minuti sulle campagne e sui paesi. Per estensione delle terre allagate e per volumi d'acqua esondati, quella del Polesine è considerata la più grande alluvione del nostro paese in epoca contemporanea. La villa di Gesto tiene ancora, mentre l'acqua continua a premere e a infiltrarsi a Rovigo. Sabato 17 novembre, ore 8. L'acqua ha travolto l'argine sul quale avevamo fatto ieri la prima registrazione. Nebbia, freddo e acqua dappertutto stasera nel Polesine. Le onde, battendo contro le sponde della barca, lanciano spruzzi d'acqua sui sacchi di pane che stiamo portando. Così come fu repentina e inattesa la catastrofe, al tempo stesso immediatamente si mise in moto una poderosa operazione nazionale e internazionale di solidarietà, una mobilitazione che non conobbe distinzioni politiche e anche ideologiche in un paese che solo pochi anni prima aveva vissuto gli orrori della guerra civile. Partì una vera e propria gara alla raccolta di fondi e di beni a favore del Polesine. Centinaia i volontari che si unirono alla macchina dei soccorsi, così come furono moltissime le famiglie in tutta Italia che offrirono alloggio agli sfollati e ai profughi. Il primo organismo istituzionale ad intervenire in soccorso della popolazione fu il Comitato Provinciale per l'Emergenza, presieduto dal presidente della provincia Alfredo De Polzer. Si mise in moto la macchina organizzativa del Partito Comunista Italiano, delle Camere del Lavoro e delle principali organizzazioni sindacali. Le attività di soccorso gestite direttamente dal governo poterono al tempo stesso contare sulla capacità di intervento della Democrazia Cristiana, delle ACLI e in genere dell'associazionismo cattolico. Anche su scala mondiale si verificò un'analoga contrapposizione con una vera e propria gara di solidarietà tra Unione Sovietica e paesi del blocco socialista da una parte e americani dall'altra. Abbiamo in linea lo storico Paolo Sorcinelli, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna, autore del libro L'alluvione, il Polesine e l'Italia nel 1951, pubblicato da UTET. Professore, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, grazie a voi. Allora, lei che ha indagato così da vicino quel che avvenne 60 anni fa nel Polesine, Ci racconti un po' in che condizioni era il nostro paese nel 1951 e quali furono in realtà poi le vere cause che determinarono una catastrofe di tali proporzioni? L'Italia era un paese allo stremo, stava faticosamente cercando di venire fuori da tutte le conseguenze della guerra, era un paese con un alto tasso di disoccupazione, era un paese in cui c'erano delle spaccature culturali, sociali, economiche e anche ideologiche, da una parte un forte blocco socialcomunista, dall'altra parte De Gasperi, la Democrazia Cristiana, appoggiato da liberali, in qualche caso anche dai Missini, eccetera, eccetera, che era il governo. Ecco, una contrapposizione che poi è stata esemplificata nei film di Cervi e Fernandel, certo. Don Peppone e Don Camillo, Camillo, sì. No? E da tutta una serie di racconti, eccetera, eccetera. Ecco, è una contrapposizione fortissima, è anche l'anno del primo festival di Sanremo con il La Pizia Vola Colomba, no? Qualche mese prima c'era stato il primo festival di Sanremo, appunto, è un anno in cui nelle sale cinematografiche circolano film come Catene, come I ladri di biciclette, eccetera. Ecco, questa è l'Italia. E poi il Polesine soprattutto è uno delle zone, dei territori più poveri dell'intero paese. Si disse poi all'epoca, venne scritto sulla Civiltà Cattolica dei Gesuiti, che praticamente il Polesine era un pezzo d'Africa a pochi chilometri da Venezia e da Bologna. Ecco professore, ma a questo riguardo anche la configurazione idrogeologica di quel territorio lì favorì in qualche modo nell'Italia degli anni 50 una catastrofe di tale proporzioni che non sarebbe stata invece concepibile in una, come dire, dimensione per come dire normale. Ma sì, favorì nel senso che ci furono perlomeno 20 anni in cui il Po non venne curato, ecco. Cioè in cui prima con gli anni 30 e con le difficoltà economiche, i soldi che venivano spesi per la conquista dell'impero, poi ci fu la guerra, poi ci fu il dopoguerra, ecco, vennero fatti soltanto dei lavori di ordinaria manutenzione. Sì. Si interveniva ogni tanto su diversi pezzi di argine, soprattutto su sollecitazione dei carabinieri, dei sindaci, per sollievo della disoccupazione, cioè per dare del lavoro ai disoccupati affinché questi se ne stessero calmi, no? E quindi venivano fatti dei lavori senza nessun piano organico, senza nessun progetto. Guardi, dove il Po in quella fine giornata del 14 novembre ha rotto, non a caso era un pezzo, alcuni chilometri di argine che erano più bassi di 70 centimetri del resto dell'argine. Appunto. E proprio, guardi caso, ha sfondato dalla parte di Rovigo e non ad esempio di rimpetto a Rovigo, cioè a Ferrara, nel Ferrarese, nell'Emilia. Si è riversata tanta acqua, non sì. È soltanto un fatto che abbia piovuto molto, ma ha piovuto per giorni e giorni e giorni, praticamente dal 6 in poi piove in continuazione, e non piove soltanto sul Polesine, ma pioveva sulle Alpi, certo. Sul Piemonte, pioveva in Lombardia, in Valtellina, pioveva in Trentino, in Alto Adige, eccetera, eccetera, e pioveva anche sul versante appenninico. Uh-huh. Ora tutte le acque di tutti i bacini fluviali, torrentizi, eccetera, eccetera, si sa che finiscono nel Po, e a quel certo. Punto è arrivata questa massa d'acqua che ha rotto l'argine proprio dove l'argine era più bassa. Ecco, nell'immaginario collettivo degli italiani di quegli anni e negli anni a venire, cosa rappresentò il disastro del Polesine? Il disastro del Polesine, l'immaginario collettivo degli italiani fu colpito soprattutto da un episodio, il più tragico forse, perché se noi pensiamo che i morti alla fine furono 101 da quello che noi abbiamo ricostruito, è vero che ci possono essere stati dei dispersi, non sono stati calcolati, ma ecco, 100 morti grosso modo. La prima notte, fra il 14 e il 15 novembre avvenne il fatto che scatenò l'immaginario collettivo degli italiani. Sì. E il fatto fu dato da un camion partito da Rovigo dopo mezzanotte, che con il compito di andare a prelevare gli abitanti di alcuni paesi là attorno. E questo camion non ritornò mai più. Su questo camion salirono moltissime persone, si disse poi 99, ma non è vero, molti di meno, perché il camion non poteva contenere 99 persone, ma sta di fatto che il giorno dopo si parlò di 33 morti e 7 persone che riuscirono a salvarsi. E a quel punto tutti i giornali dell'epoca più importanti mandarono dei loro corrispondenti. Allora arrivarono nel Polesine un giovanissimo Giorgio Bocca, arrivò un giovanissimo Biagi, arrivò un Salvalaggio, arrivò Montanelli, e arrivò un Saverio Tutino. Ecco, questi giornalisti, certo, che poi noi abbiamo imparato a conoscere, fecero da cassa di risonanza per quella notte, questi bambini travolti dalle acque su un camion, eccetera, eccetera. E questo naturalmente suscitò un'emozione, che per esempio non c'era stata quando in Calabria un mese prima erano morti 78 persone nei paesi dell'Aspromonte, due paesi completamente abbandonati, e non c'era stata quando negli stessi giorni c'era stata l'alluvione in Sardegna e in Sicilia. Ci fu però per il Polesine e cominciò una gara di solidarietà che non si era mai avuta in Italia, forse si era avuta soltanto con il terremoto di Messina del 1908-1909. No? Ecco, anche questo deve essere uno dei caratteri salienti anche dell'Italia di allora, e cioè grande povertà, grande arretratezza, ma anche un grande senso di solidarietà e un mobilitarsi a tutti i livelli su una sciagura così, così grossa, così imprevista poi. Certo, ma poi ci fu la stessa radio che intervenne, un giovanissimo Corrado, ad esempio, condusse una trasmissione, la catena della solidarietà, tutte le sere raggiungeva gli italiani che ascoltavano la radio e dicendo: italiani, aiuto per gli italiani. E praticamente arrivarono 500 miliardi si raccolsero in Italia, altri 130 miliardi si raccolsero dagli altri paesi. Lei pensi che arrivarono offerte in denaro persino dall'Albania e dal Vietnam. Praticamente tutto il mondo fu coinvolto in questa catena di solidarietà. Professore, grazie molte per tutte queste informazioni che ci ha dato, ci ha riportato pienamente in quegli anni. Grazie, sono contento di aver dato questo contributo. Buona serata. Buona serata a lei, grazie.